Ciao a tutte e a tutti, qui Radio ZM, sono le 19:02 ed è il 17 marzo. È la quinta pillola della settimana. Io e Chiara, la mia speaker di oggi, La co-conduttrice. insieme a Lorenzo, chiaramente, parleremo di Violenza di genere e violenza domestica nello specifico durante questo periodo del coronavirus. Parleremo con delle compagne in giro per l'Europa. Da Berlino alla Svezia, a 22 marzo a Milano, a Rho. Tutta la musica che sentirete è stata scelta da Lady J, che ringraziamo. Durante la trasmissione vi forniremo anche dei numeri da poter chiamare e non una di meno Milano sta facendo un grande lavoro su questo e anche altre reti di cui parleremo più tardi. Vi forniremo dei dati, ma è un momento anche di ascolto. Per tutte quelle persone che sono a casa e che sono costrette a stare a casa nonostante tutto e nonostante la violenza domestica. Lascio la parola a Chiara. Va bene, la mia introduzione sarà legata ai numeri da chiamare in caso di necessità. Infatti, i centri antiviolenza della rete Dire si sono organizzati appunto per rispondere a questa emergenza, perché purtroppo la violenza di genere non si ferma per il coronavirus. Quindi, allora, la rete Dire a Milano ha tre centri antiviolenza: la casa di accoglienza delle donne maltrattate, il numero di telefono da contattare in caso di necessità è lo 02 55 01. Odio il mio telefono, 5519. Un altro centro antiviolenza sono i cerchi d'acqua cooperativa sociale. Il numero di telefono è lo 02 il 58 43 0117. E l'altro numero possibile sono le donne insieme contro la violenza, 02 09 04 20 110. Questi numeri, così come le mail, potete trovarle tranquillamente appunto su internet. Basta digitare rete dire, che è una rete di centri antiviolenza non per forza istituzionali, legati appunto a associazioni di donne che lavorano per le donne. Ora mandiamo un altro bel brano di Lady J e ci sentiamo tra poco. Calling, speak the slang now. Boy say what? Go on, girl say what? What? London calling, speak the slang now. Boy say what? Go on, girl say what? What? Slam, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, too late, you down. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Ci esortano a parlare, insomma, per i compagni e le compagne che si sono appena sintonizzati, quindi ben 17 minuti in ritardo dall'inizio della puntata, vi ricordiamo che la musica è stata gentilmente selezionata da Lady J, quindi ce l'ascoltiamo tutta fino alla fine. Sono qua con Jordi e con Marti, e sono le 19.17 appunto, questa è la quinta pillola della settimana per Radio ZM, e i contenuti che il collettivo vuole portare agli ascoltatori e fare compagnia da casa. Quindi passo la palla a Jordi. DJ Jordi. Ciao Jordi. Come avrete notato sono leggermente nervosa, quindi abbiate un po' di pazienza. Una cosa che ci tenevamo a dire oggi è anche appunto che il femminicidio, che leggo testualmente la definizione, è qualsiasi forma di violenza esercitata sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale con lo scopo di mantenere la subordinazione di genere, è soltanto appunto la parte più spettacolare e visibile di un problema che riguarda appunto la violenza di genere, che è strutturale all'interno della nostra vita. Parte dal fischio per strada, dalla battuta, da un commento non richiesto sul nostro corpo, da come vengono diffuse le notizie sui femminicidi. Infatti vengono raccontate sempre come un'azione folle e irresponsabile, un'azione non ordinaria commessa da un singolo, tendenzialmente una mela marcia, malgrado però avvenga ogni giorno. E da qui bisognerebbe appunto partire con una riflessione, considerando il fatto che evidentemente se è qualcosa che avviene ogni giorno non è poi così poco diffuso e quindi non è così un evento così non ordinario. E questo problema riguarda moltissime di noi, infatti i dati parlano abbastanza chiaro, e non volevamo appunto parlare solo di femminicidi, ma anche di violenza psicologica e violenza sessuale, e per fare questo abbiamo anche deciso di chiamare alcune donne. Una, Martina, viene da? Sì, vorremmo chiamare Julia, che ci sta ascoltando dalla Svezia, è una compagna svedese che è stata alcuni anni qui in Italia. E adesso la chiamiamo in diretta insieme a voi. Avremo anche altre ospiti. Pronto? Ciao Julia! Ciao Julia! Ci senti forte e chiaro? Sì, ti sento. Perfetto, noi sentiamo te. Ma io ora sono in diretta. Sì, sei in diretta. Benvenuta a Radio ZM. Grazie. Dunque, come va in Svezia la situazione? In Svezia oggi hanno chiuso i licei. I licei. E l'università. E anche l'università. Però ancora le scuole medie sono ancora aperte. E sì, c'è ancora un po' di confusione su che cosa fare, che procedure attivare? Sì, esatto, sì, perché qua non hanno chiuso tutto, più, non lo so, ogni giorno succede qualcosa, ma sono nuove persone che sono morte finora, e abbiamo più di 1000 casi, 1100 qualcosa, quindi la situazione sta diventando abbastanza grave anche in Svezia, e tutti ora, seguono anche la situazione in Italia, e si parla molto dell'Italia in Svezia, anche se la televisione. Ci stavi ascoltando prima? Ok, noi avevamo voglia di dedicare questo programma un po' a le donne che sono costrette in questo periodo a stare a casa, perché qui, come sai, hanno chiuso tutto e c'è un decreto che ci obbliga ad uscire meno possibile e a stare quindi in casa, e quindi come la violenza domestica in questo periodo possa prendere un sacco di spazio in più che già ha durante il corso di tutto l'anno. E, sì. Non so se vuoi dirci due cose, se te la senti un po', su com'è magari percepita anche da te stessa la violenza domestica in Svezia, perché qui è un problema reale e quotidiano. Sì, penso che sia anche qua un problema quotidiano. Finora non sappiamo, cioè finora le persone non stanno in quarantena, quindi alcune sì, ma comunque è anche un problema che noi dobbiamo affrontare forse più avanti, capire meglio come saranno le conseguenze sociali per donne, ma anche non solo donne, anche bambini che forse hanno problemi a casa, oppure sì, e anche l'isolazione in generale, e comunque anche la riproduzione sociale come un tema femminista in generale, e quindi anche è veramente una poi in Svezia anche hanno chiuso un centro di donne abbastanza recentemente, e quindi anche tanti centri di antiviolenza stanno senza soldi ora, e questo è anche un problema. Sì. Ok, questa cosa purtroppo ci accomuna, perché anche qui i centri antiviolenza rischiano costantemente di chiudere e di ricevere sempre meno fondi per continuare il loro lavoro, che è fondamentale e di estrema importanza. Anche non in tempi di coronavirus. Già in tempi di coronavirus peggiora ancora. Ciao, io mi presento, sono Lorenzo. Ciao. Quindi l'emergenza c'era già prima, figuriamoci adesso. Ah, sì. Sì, per esempio c'era un centro di antiviolenza la scorsa settimana, per 20 anni avevano dato supporto a donne in 69 lingue, e ora loro stanno senza finanziamento e non possono più continuare, forse. Sì, quindi questo è anche un problema, no? Certo. Sì. Vabbè. Giulia, se ti va, ti richiamiamo nelle prossime settimane, così farai la nostra corrispondente in Svezia, per anche capire come prosegue lì la situazione. Va benissimo, sì. Quindi rimarremo aggiornate. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao Giulia, grazie. Grazie, facciamo, ciao. Mettiamo un po' di musica? Sì. Mentre salutiamo Giulia, mettiamo... Giulia, ascoltaci che mettiamo un po' di musica bellissima. Ora ci sono i Genesis con Grimes. questo pezzo è bellissimo. Fermo tutti un secondo perché, cioè, ci stanno pure arrivando dei messaggi. Dei messaggi ci stanno arrivando, dei complimenti per la musica. Ci chiedono come si chiamano i pezzi, insomma. Grazie Jay, grazie mille, non smetteremo mai di ringraziarti. Marti, dici? Che mi guarda, Marti. Volevo perché... salutare Teo che mi ha scritto un messaggio, si sta allenando con questa bellissima musica. Ciao Matteo, salutiamo Matteo e di conseguenza tutto il dopolavoro Stadera. Poi magari a fine puntata facciamo un refresh di cosa stanno facendo tutti i vari nuclei attivi dei nostri compagni e delle nostre compagne in giro per il territorio, sia fuori che dentro. Sì. Ci siamo anche dimenticate di salutare Gioia. Ciao Gioia. Ciao Gioia. Ma non ci siamo dimenticati. Tutto bene? Non avevamo alzato i microfoni, l'abbiamo fatto prima. Dai, eravamo d'accordo, non la dovevamo salutare. Davvero? Hai ragione, ho sbagliato. Ma non è quella Gioia, io intendevo l'altra Gioia. L'altra Gioia, sì, l'altra Gioia. Sì, sì. Ciao Gioia 2, a quanto pare, perché sei 2, però niente. Quindi riprendiamo le redini della puntata, andiamo avanti. 19.35, Radio ZM, e quinta pillola della settimana, Jordi Dicci. Sì, volevo ricollegarmi un attimo alla conversazione che abbiamo avuto con Giulia prima. Ho trovato questo articolo molto interessante che dà tutta una serie di dati. È una intervista alla... Ecco, ovviamente il mio telefono sempre non è collaborativo. Alla responsabile della rete Dire. Ci dice che l'Istat, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità e le Regioni, ha condotto la prima indagine sui 281 centri antiviolenza in Italia, diffusa a fine ottobre, secondo la quale... Nel 2017 si sono rivolte a centri antiviolenza 43.467 donne. Il 67,2% ha iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Tra quelle che hanno iniziato questo percorso, il 63,7% ha figli, minorenni nel 72,8% dei casi. L'analisi Istat mette in luce un elemento su tutti, ovvero il fatto che i centri antiviolenza sono pochi, perché li chiudono in continuazione o non li sovvenzionano. E la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul del 2013 infatti individua come obiettivo quello di avere un centro antiviolenza ogni 10.000 abitanti. Al 31 dicembre 2017 sono attivi in Italia 281 centri antiviolenza, pari allo 0,05 centri per 10.000 abitanti. Quindi diciamo che il numero è estremamente inferiore rispetto invece a quello legato alla Convenzione di Istanbul che l'Italia appunto ha firmato rispetto alla prevenzione della violenza di genere e a appunto combattere le discriminazioni. Dunque adesso abbiamo un'altra chiamata che facciamo anche questa in diretta. Non diremo il nome della ragazza che sentiremo perché giustamente vuole essere anonima. È una educatrice che lavora anche nell'ambito della violenza, diciamo, di genere. Adesso stiamo cercando di metterci in contatto con l'educatrice e l'articolo che ha letto Jordi secondo me è molto emblematico per la situazione che stiamo affrontando anche in vista di momenti in cui questa situazione sarà peggiore sicuramente. Ora il telefono si sta connettendo, stiamo chiamando. Pronto. Ciao. Ciao. Ciao, benvenuta. Ciao. Ci senti? Vi sento benissimo, vi stavo sentendo benissimo e mi unisco ai complimenti per la musica perché è veramente figa. Grazie, grazie mille, grazie a Jay. Dunque, noi non ci aspettavamo questa chiamata, ma secondo me sarà una chiamata estremamente importante e delicata probabilmente. Quindi vorrei lasciare a te la parola perché hai deciso di intervenire in questo programma oggi. Sì, allora io in realtà non mi occupo specificatamente di violenza di genere, ma avendo a che fare con adolescenti e servizi sociali con famiglie in carico è spesso un tema che non è, come dire, non è adeguatamente identificato in maniera isolata, ma ci si trova un po' ad averci a che fare in maniera, come dire, un po' per forza di cose e meno in maniera specifica, ecco. E in particolare oggi stiamo un po' tutto facendo gli educatori al telefono e via Skype con un pessimo utilizzo della tecnologia, perché in realtà ci fa cagare tutti quanti, è inutile che ci giriamo attorno. E quindi oggi mi sono trovata a gestire uno dei miei ragazzi un po' più grandi che mi ha raccontato di essere in difficoltà perché la mamma della fidanzata ha palesemente un problema di alcolismo e vive da sola con la fidanzata e quindi lui è giustamente preoccupato su che cosa possa fare. Quindi se vogliamo è un caso di violenza totalmente al femminile e totalmente in questo momento fuori da qualsiasi possibile, come dire, stradamento a livello di servizi. Quello che dicevate sulla presenza di servizi rivolti come centri appunto antiviolenza è assolutamente veritiero e triste, è una cosa che forse chi come noi ci mette le mani in pasta se ne rende ben conto. Ancora peggio è quando poi ci troviamo in una situazione come questa, cioè stare a casa e questo fantastico hashtag che gira con scritto io resto a casa. È tutto molto bello se a casa non c'è una situazione di violenza, ovviamente, perché in questo motivo è stato, cioè in questo momento è stato molto anche pesante dover dire non c'è niente che si può fare adesso. Cioè la cosa migliore che si può fare è intervenire chiamando le forze dell'ordine, ovviamente non sarebbe la cosa più auspicabile in tempi normali, ma bisognerebbe trovare qualcuno a cui rivolgersi e che si faccia carico della richiesta a 360 gradi, ma in questo momento tutti i servizi sono sospesi e quindi la gente si trova davvero ad avere a che fare con problemi che già sono problemi enormi normalmente, ma stare un mese e mezzo chiuso in casa con una situazione di violenza, non è certo un bellissimo, come dire, modo di passare la quarantena, anzi, ma soprattutto può dar luogo a una serie di fenomeni che non vanno altro che ad appesantire una situazione che già di per sé è complicata. E fanno fatica a chiedere aiuto, molto spesso succede che appunto arriva per vie informali. Io mi occupo in realtà di politiche giovanili, quindi non è che sono lavoriamo con i servizi sociali, però in realtà gran parte del lavoro è un lavoro informale, però ci arrivano questo tipo di richieste e c'è molta ignoranza anche tra i ragazzi su come ci si debba muovere, su che cosa sia violento e anche su che cosa sia violenza e su che cosa sia violenza di genere. Noi facciamo abbastanza una testa quadrata, ma alle volte nella loro ingenuità ti rendi conto di quanto viene passato, sembra banale, ma davvero dalla società e da come sono abituati a vivere ogni giorno. Cioè tutta una serie di epiteti che ben conosciamo tutti quanti e... Ci possono dire le parolacce a questa trasmissione? Certo, assolutamente sì, anzi, secondo me devi in questo momento. Spiegargli la differenza tra troia e stronza è già una roba che lì... non ci avevo pensato. Ma sesso le ragazze, non vorrei... Certo. Non vorrei doverlo dire, ma molto spesso le ragazze sono le prime che non si rendono conto del potere che hanno le parole e poi ovviamente si innesca tutta una serie di meccanismi, compreso l'accettazione, che le porta secondo me a essere più esposte a delle condizioni di fragilità, ecco. Sì, tra l'altro il linguaggio è assolutamente alla base di un'ipotetica piramide della violenza. Quindi siamo estremamente d'accordo con quello che dici. Ma comunque spiegare agli adolescenti come fai tu o le tue colleghe, i tuoi colleghi, anche solo la differenza fra troia e stronza e far capire a loro e agganciarli anche su questi temi è assolutamente importante e prezioso, anche se sembra poco. Secondo me non è assolutamente superficiale, anzi si parte proprio da come si parla, da come ci si esprime, perché il linguaggio crea chiaramente degli immaginari che poi nella nostra testa sono reali e quindi ci appigliamo ad essi per poi immaginarci dei mondi, no? E quindi cambiare il nostro linguaggio è assolutamente alla base di quello che poi vorremmo creare nel nostro mondo, che deve essere assolutamente diverso da quello che c'è, che ci ospita in questo momento, diciamo. Sì, e dall'altro lato c'è veramente poca attenzione. Io ricordo che quest'anno la mia fortuna è che nel mio centro giovani c'è un nutrito gruppo di fanciulle invece che di fanciulli, che è una cosa strana perché di solito è un servizio che predilige i maschi. Noi siamo un po' più brave a farci compagnia da sole, quindi difficilmente andiamo a popolare posti del genere. Invece da me sono praticamente tutte ragazze, tranne pochissimi maschi. E quando c'è stata la giornata contro la violenza di genere abbiamo chiesto, io un collega maschio, perché per dovere di servizio dobbiamo sempre essere presenti in due, un maschio e una femmina, abbiamo chiesto loro che cosa avessero fatto a scuola, che gli avessero spiegato che giorno era, e le risposte sono state agghiaccianti, perché sono state niente. E avevamo davanti 7 scuole diverse, dove zero, ma zero vuol dire zero, cioè non spiegare che giorno fosse, come nascesse, perché, per come, e se ti va bene, appunto, hanno te, chiedono, ascoltano anche i tuoi pippotti di 3 ore e alla fine qualcosa gli resta, se no sono assolutamente lasciati a loro stessi e poi appunto non riescono a risignificare tutto quello che vivono, mentre invece la lampadina poi si accende, perché non sono così scemi come li facciamo in realtà. Poi ovviamente sono di parte, in caso non si fosse notato. Certo, chiaro, no, sull'educazione e la scuola, torniamo ad essere d'accordo con te, c'è un vuoto... Ne faremo una puntata. Sì, esatto, quindi magari ti richiameremo, oppure sì, ci risentiremo presto per magari parlare di educazione sessuale, affettiva. Praticamente stai finendo nell'elenco dei numeri di telefono da chiamare durante le trasmissioni radiofoniche, se non te ne sei accorta. Noi adesso facciamo ovviamente con consenso, noi facciamo rubrica. Solo le cose con consenso, se tu sei d'accordo. Se ti va... Assolutamente sì, però sapete che scoperchiate il vaso di Pandora. Ma siamo pronti, prontissimi. Noi ti ringraziamo, vorremmo agganciarci riproponendo i numeri da poter chiamare in caso di emergenze, soprattutto in questo periodo, e così li ridiciamo magari, ok? Sì, infatti la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano ha scritto un post, vari post in questi giorni, dicendo appunto che garantisce l'accoglienza telefonica e la gestione delle situazioni di emergenza, e le operatrici di accoglienza rispondono al numero 02 55 01 5519. Comunque basta cercare su internet Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano e troverete tutti i contatti che servono. Grazie mille per il tuo contributo. Grazie. Grazie a voi ragazzi. A presto. Ciao. Tieni alta la connessione, ascoltaci se hai voglia e andiamo avanti sempre con la musica dalle DJ. Ci sentiamo tra poco. Assolutamente sì. Grazie. Ciao, grazie, ragazzi. A presto. Impazzano i messaggi, mi sa che dopo dobbiamo scoperchiare sta playlist e mettere le tracce da qualche parte, perché la gente continua a chiedere. and sipping soda, realizing that it's over. My feelings he couldn't reciprocate till October. But he's the one I wanna lay my head upon his shoulder and keep it warm because it's just about to get colder. But I said I wouldn't see him, nor would I touch him. He says he misses me much and proceeds with sounds of suction through the phone. I tried to hit the dial tone to clear the mess up, a fess up, and say I'll be there soon, just clear rest up. I can't dismiss it, no matter how much I just can't resist it. And now he's telling me he finally wants to be committed. I can't call it. Would I be playing myself to fall for it? Scanning my mind to see how much time I can stall, or it could blow up. Other kisses affect like anesthetic. It's never as good as the first time, and you never do forget it. Feeling pathetic, but I quote it like someone said it. If you really love it, then you should just let it go. Let it go, let it flow. Move on with your life and act like you know. Been on my last breath, been between life and death, but I gotta let it go. Can't deal with the stress. I let it go. Let it go, let it flow. Move on with your life and just act like you know. Been on my last breath, been between life and death, but I gotta let it go, can't deal with the stress. 3 times this year I've seen my people go to violent action that could have been avoided without negative instigation. Going on, off at the mouth with foul verbal interaction, inevitably ending up with one or more gunshot patients. I guess it's not a virtue anymore, and scores gotta be settled with steel or real, and even in the flesh and bone feel. But 18 feet of soil was dug out, 3 brothers' lives was struck out, cause you wanted to be down without catching a body, you stuck out. Hey, what goes around is ultimately what you give. Sometimes good people and bad things mix. Sometimes death will fix the way you live. I give my life to bring back family and friends, but I don't control that. I know that mine's precious till the end. I leave my life course to the greater knowledge of the creator. And if it's time to go, I won't hold back. I'll just let it go, let it flow. If it's meant to come back, then it shall do so. Let it go, let it flow. Move on with your life and act like you know. Been on my last breath, been between life and death, but I gotta let it go, can't deal with the stress. I let it go. Let it go, let it flow. Move on with your life and just act like you know. Been on my last breath, been between life and death, but I gotta let it go, can't deal with the stress. At 13, I watched ghetto gold turn to green. I get crushed due to some dramatic street scene. When all my people's lives are wild out, wearing the low style out. One night we stood in front of home base, watched the club file out. Mad people started running, that was the end of funnin'. One nigga standing, B-boy stands, holding his gun and started shooting. Polluting the curbside with shells, yelling, bugging out cause someone step on his gazelles or aces. Whatever it was, money's beef was basic. It's tragic the way that people take an anger and misplace it. So now, mad on my people's wearing scars and stitches, cause niggas choose to play the role of acting like bitches. Don't take it hard if it's not, you act like you know. And all that unnecessary shit, just let it go. Let it go, let it flow. Move on with your life and act like you know. Been on my last breath, been between life and death, but I gotta let it go, can't deal with the stress. I let it go. Let it go, let it flow. Move on with your life and just act like you know. Been on my last breath, been between life and death, but I gotta let it go, can't deal with the stress. Scratch, andiamo avanti, che è bellissimo, potrebbe durare tutta la puntata così. Vi ritrovate? Grande Jordi! Ormai mi sono sciolta. Volevamo salutare Davide che ci sta ascoltando da Bollate. Ciao Davide, ci manchi un sacco. Ciao! Ciao Davide! Un saluto a tutti i compagni e tutte le compagne connessi. 19:58 del 17 di marzo, andiamo avanti con la quinta pillola della settimana. Ringraziamo le DJ per la splendida musica che sta sfumando e dopo andiamo avanti. Jordi, a te la palla. Sì, prima della prossima telefonata volevo dare altri dati che leggo sempre da questo articolo e intervista della responsabile della rete Dire. L'82% di casi, dei casi chi fa violenza su una donna ha le chiavi di casa. E quanto si legge nel rapporto diffuso dalla Polizia di Stato, questo non è amore. Con i drammatici dati aggiornati al 2019 sulla violenza sulle donne. Un report che parla di 88 donne vittime di atti di violenza ogni giorno. Solo nel mese di marzo, questo è un articolo del 2019, ogni 15 minuti è stata registrata una vittima di violenza di genere e di sesso femminile. Maltrattamenti, atti di stalking, violenze sessuali, percosse, nel 60% dei casi sono commessi dall'ex partner. Adesso chiameremo una compagna da Berlino. Da Berlino. Ha proprio l'accento berlinese, adesso sentirete. Il telefono squilla. Piazza Grande. Pronto. Ciao. Pronto. Buonasera. Ciao. Sei in diretta. Buonasera. Sei in diretta su Radio ZM, benvenuta. Grazie. Grazie. Come va? Beh, ho appena iniziato, stavo in una call, in una videochiamata con altre compagne qui a Berlino e quindi sto tipo con quasi tre call e Bill che continua a fare a chiamarmi. Cioè, aiuto! Ormai si vive così, su Skype. Sì, ormai si vive... Ma no, io non sto usando quasi per niente Skype. No, ho detto Skype perché non sono aggiornata, anche se dovrei... No, comunque sì, ormai si vive ancora molto di più sul web. Allora? Com'è lì a Berlino? Com'è la situazione? Come si vive? Come si vive? Si vive ancora abbastanza incoscienti, consapevoli, direi. Ah sì? Sì, nel senso che ci sono state, ovviamente, vabbè, adesso le scuole hanno chiuso, stanno chiudendo gli uffici, hanno chiuso anche gli uffici pubblici, ormai si fa tutto tramite telefono o appunto web, però poi devo dire è arrivata la primavera e quindi la gente è impazzita, sta tutta in giro, cioè proprio... Stanno, oggi mi sono andata a fare giusto una passeggiata col cane in bicicletta per non camminare, per non stare troppo vicino così, e, però non, c'è ancora il deserto per le strade come in Italia. Poi tu dai, la questione è che qui dall'alto la si sta prendendo in una maniera diversa, o comunque diciamo è lento, cioè non si è preso diciamo... troppo esempio da quello che è successo, cioè di quello che sta accadendo in Italia. Poi tu, vedendo le immagini ovviamente dell'Italia, te ne rendi più conto rispetto a magari qualcuno che non le sta minimamente calcolando, come del resto è stato l'effetto per i cinesi quando si sono ritrovati con il loro paese ovviamente disastrato da questa epidemia, in Italia che ancora nessuno faceva niente. Io ho visto i primi cinesi mettersi le mascherine, i milanesi che li prendevano in giro dicendogli ti proteggi perché non vuoi infettarci, li fanno no, io mi sto proteggendo da voi perché ora siete voi gli infetti, io so cosa sta succedendo perché a casa mi stanno morendo i parenti e non voglio assolutamente che succeda anche a me. Ah sì. Niente, sì, ma infatti diciamo che gli italiani qui sono stati i primi a... diciamo anche un po', cioè all'inizio siamo stati, diciamo, a me è successo ovviamente in prima persona e siamo stati anche da un certo punto di vista discriminati perché italiani e poi adesso dopo la discriminazione anche un po' presi per il culo e quindi cioè anche presi sotto gamba. E questa è una cosa che comunque da non tedesco un po' la senti. Ma quanti sono i casi in Germania? Guarda, te lo dico subito, prima, perché poi vabbè, noi ci stiamo confrontando al secondo come insomma collettivo, come gruppo di compagni, amici, così, e praticamente ci sono, poi c'è una tra di noi che è chimica e molto, insomma, sta molto incastrata su queste cose, e adesso ci sono 23 morti accertati, 8600 infetti, giovedì, quindi oggi è martedì, giovedì scorso, neanche una settimana fa, erano 1.300. Quindi un bel incremento. Capite che c'è Berlino, che è Berlino, che fa land, fa diciamo federale, quindi Berlino e Brandeburgo fanno land a parte, e solo Berlino oggi ha gli stessi, mi sembra, infettati del Lazio, che comunque c'è arrivato in pochissimo tempo a questa, perché comunque non si è direttamente arrivati alle direttive che hanno messo in vigore l'altro ieri. Cioè, comunque, da quando in Italia hanno messo le restrizioni, quelle poi più dure, qui in Germania sono passati altri 7-10 giorni, che sono tanti. Sono proprio tanti, considerando che poi a Berlino, in particolare, è pieno di bar, club. Le persone vengono a figliare qui, quindi ci stanno tantissimi bambini e bambine, quindi insomma, sì, non, diciamo che scusate, sono un po' rallentata. Dall'alto c'è una gestione che sta a metà tra l'Italia e l'Inghilterra, secondo me. Sì, immaginavo dalle tue parole. Sì, sta un po' a metà tra ovviamente il non fare niente, no, però il fare qualcosa, però limitando i danni, insomma. Effetto E limitando i gregge danni nascosto. produttivi. Come dici? Eh Effetto gregge nascosto. sì, un po', Ci sì, hanno quello mandato sì. dei messaggi della gente che ci sta ascoltando e ci chiedono di che collettivo fai parte a Berlino. Scusa. Allora, faccio parte di un collettivo che si chiama Berlin Migrant Strikers e anche di un collettivo femminista che si chiama No Border Feminism. Grazie perché gli ascoltatori erano incuriositi. Sì, no, certo. E noi abbiamo anche, diciamo, provato a mettere giù, piano piano stiamo provando a mettere giù delle, insomma, delle considerazioni, delle analisi, e insomma, presto vorremmo anche condividerle. E in realtà questa analisi parte, diciamo, dall'hashtag io resto a casa o comunque restare a casa e tutto, cioè, tutto quello che comporta dalla presa di coscienza, alla presa di responsabilità alle conseguenze che questa. Diciamo questa scelta condivisa comporta, perché comunque penso lo state vedendo anche voi in Italia, il restare a casa comunque comporta tutta una serie di conseguenze, sia a livello individuale che poi a livello collettivo. Certo. Ci stavi ascoltando prima? In Purtroppo no, perché stavo in call. call, Ma no, scusate. tranquilla. Noi abbiamo un po' aperto la puntata parlando della violenza domestica e dei centri antiviolenza che non vengono Non ti sovvenzionati e sento che più, avete aperto la puntata parlando? della violenza domestica che crescerà in questo periodo di clausura forzata. Sì. Ok, abbiamo dato dei dati e stavamo un po' parlando dei centri antiviolenza che non riescono a fare il loro preziosissimo lavoro in quanto vengono chiusi o non sovvenzionati. In Germania com'è la situazione riguardo a, non so, la percezione della violenza domestica? Allora, sì, logicamente, cioè, logicamente come si è attivato tutto lentamente, si sta attivando lentamente anche questo fronte, anche perché appunto restrizioni diciamo molto come quelle che sono state attuate in Italia ancora non ce ne sono, però proprio oggi. Alcuni gruppi, alcune organizzazioni stanno iniziando a lanciare, diciamo, gli stessi appelli, quasi gli stessi appelli che ci sono in Italia. Quindi appunto c'è questa attenzione, infatti sono stata contenta perché diciamo il tema di violenza domestica e violenza sulle donne, insomma, all'interno del nucleo familiare o comunque della casa è un po' sottovalutato qua in Germania a livello istituzionale, eh? Poi ci sono le organizzazioni dal basso che sono molto coscienti di questo ovviamente fenomeno, però dall'alto non è che se ne parla chissà quanto. E quindi proprio oggi ho visto che c'è un'organizzazione che ha attivato dei numeri o comunque un'assistenza specificatamente per le persone queer e trans anche. E poi ci sono altre organizzazioni formali e informali che appunto si stanno attivando. In generale, la cosa bella che è successa è che comunque in ogni quartiere, tramite Telegram o Facebook, ci sono iniziative di quartiere, cioè gente che nel quartiere si sta parlando, organizzando per assistersi. Questa è una cosa molto bella, devo dire. Sì. Sì, no, questo è bello, trovi su Telegram o appunto sul web, trovi tutti i contatti e i gruppi divisi per quartiere, per Bezirk e alla fine alcune persone si stanno attivando anche singolarmente, cioè ho visto di persone che vivono qua a Berlino che mettono semplicemente il cartello nel palazzo. Se vi serve qualcosa, io sono disponibile, sono sano, sana fino ad ora, quindi posso fare delle cose. E tutta... Però rispetto appunto alle donne, si sta attivando, sì, si sta attivando e io oggi ho scritto, per esempio, perché appunto volevo capire come ci si stava muovendo qui a Berlino. Ho scritto alla mailing list dell'Alleanza delle Femministe Internazionaliste qui a Berlino e appunto piano piano si sta iniziando a scambiare un sacco di informazioni, numeri disponibili, medici che possono visitare anche se non hai l'assicurazione sanitaria, perché qua in Germania l'assicurazione sanitaria è, diciamo, semi-privata. Quindi, Chiaro. per esempio, mi immagino tutti i migranti e le migranti, seppur da caso possono avere un problema e non hanno i documenti e non hanno l'assicurazione sanitaria, non sanno dove, cioè, non vengono assistiti. O comunque è molto difficile che vengano assistiti. Ovviamente, se questa cosa non viene presa a livello collettivo tutto uguale, non si può risolvere. Nel momento in cui, tra Esatto. virgolette, preferisci, non dico che preferisci, però lasci una via di accesso libera alle cure a un tot di persone e a un'altra no, oltre ad essere un gesto molto razzista e molto, tra virgolette, selettivo, però non risolvi assolutamente il problema. Nel senso che se curi i ricchi e i poveri li lasci morire, da qualche parte poi il virus continuerà a prendere piede. Quindi noi qua abbiamo avuto diversi casi Esatto. molto negativi, tra cui la denuncia di un senzatetto, che poi è stata, cioè si dice che sia stata revocata, che ci sia stato l'avvocato di mezzo subito, però questo senzatetto è stato fermato, identificato, gli è stato chiesto perché era in strada e gli è stata fatta una sanzione, comunque. A prescindere che adesso l'avvocato abbia risolto meno, secondo me questo è un fatto gravissimo. Certo che è grave, anche perché cioè, la questione di cui stiamo anche ci stiamo anche confrontando noi tantissimo è quest'appello che ci è stato dato, questa presa di responsabilità individuale e collettiva che tutti, cioè, ovviamente, tutti e tutte accogliamo perché non siamo deficienti, cioè, nel senso, poi ovviamente. La situazione cambierà, il fatto è che non bisogna intasare, non bisogna arrivare a un picco altissimo perché sappiamo che il sistema collassa. La questione è che noi ci dobbiamo rendere responsabili, però dall'alto questa responsabilità non si sta prendendo. perché se tu chiedi alle persone, a tutte le persone, di stare dentro casa e poi non ti preoccupi del fatto delle persone che non hanno una casa, che la casa ce l'hanno ma ci stanno male dentro, oppure insomma, tutta questa serie di cose, allora cioè, è facile dire state a casa. Cioè, io lo faccio, cioè ci stiamo a casa, dopodiché nello stare a casa, questa decisione dall'alto, questa imposizione che poi appunto viene accolta, non risolve comunque quelli che già sono le disuguaglianze sociali, la stratificazione sociale. Cioè, se è un virus che si è diffuso con i ricchi, adesso cioè, sono i poveri che ne subiranno le conseguenze. È la gente, diciamo che sono le persone più medio a basso reddito che poi sono costrette a tornare a lavorare, sono costrette a trovare un modo per accumulare dei soldi per mangiare, cioè, nel senso, anche solo per mangiare. Questo problema le persone ricche o comunque benestanti non ce l'avranno. Perché non perderanno il lavoro o perché al lavoro appunto, ci possono anche non andare, ma un reddito o un capitale ce l'hanno, O anche perché in un o periodo una di casa. magra riescono comunque a, tra virgolette, magari fare qualche piccola rinuncia e riuscire ad andare avanti a sopravvivere, perché è di quello che si parla. Non si parla di condurre Esatto. una vita chissà con quali esigenze, si parla di fare la spesa, pagare l'affitto, pagare le bollette, fine. Nel contesto in cui ci Esatto. troviamo, l'invito a restare a casa, senza preoccuparsi ovviamente di tutte quelle situazioni in cui, partendo dalla base, una casa non ce l'hanno. Il secondo livello è una casa in cui si può vivere, ma determinate dinamiche all'interno di un'abitazione chiusa da quattro mura, con la porta barricata metaforicamente, dove non si può uscire, sprigionano una serie di dinamiche che devono avere per forza delle guide, devono avere degli strumenti per essere sbobinate e risolte. Nel momento in cui, non mi ricordo quale dei nostri politici ha esortato dicendo: mi raccomando, tenete anche le distanze, quindi nelle case chiudetevi ognuno nella propria stanza, mi è venuto così tanto da ridere a pensare che forse non so quanti di noi riescano ad avere una stanza singola in cui vivere in un appartamento, ma io conosco e personalmente ho anche vissuto in nuclei familiari o nuclei di coinquilini in cui si viveva tutti nella stessa stanza ed era già una fortuna Certo. avere un letto singolo con un altro letto singolo e un altro letto singolo. Dici: ok, sono in tripla, però posso stare a Milano, posso lavorare, posso studiare, posso andare avanti con la mia vita. In un contesto in cui neanche gli studenti hanno questa possibilità, con che faccia tosta ti puoi permettere di dire: mi raccomando, chiudetevi addirittura nelle camere, non uscite da quelle. Sì, ma Quindi, perché non... dimmi. Scusa, dimmi. No, in un contesto in cui una frase può racchiudere dei paradossi molto, tra virgolette, mi viene da dire scontati, perché si sanno che ci sono queste cose. Nel momento in cui viene promosso così tanto in modo così positivo, io sto a casa, della politica non mi sorprendo più. Mi sorprendo che una grossa fetta di persone, tra virgolette, civili, non si renda conto che la fortuna che ha nello stare a casa e, tra virgolette, il privilegio che ha di trovarsi in una casa serena non è una fortuna che tutti hanno e tutte. Sì, infatti non so se avete visto una foto di uno striscione, penso non so se era scritto in spagnolo, in portoghese o in inglese, mo c'ho un attimo una confusione tale che sto leggendo un sacco di robe, però diceva che il romanticismo, l'idea romantica dello stare a casa è un privilegio. Cioè, nel senso, è un privilegio poter stare a casa, diciamo, in una situazione, in una condizione tranquilla, in una condizione in cui hai appunto un'entrata sicura, in una condizione in cui hai la sicurezza di non perdere il lavoro, in una situazione in cui hai anche, diciamo, la serenità di pure, cioè, di avere, diciamo, una cura reciproca, no? Perché magari appunto tu, come dicevi, rispetto agli studenti, o mi immagino, insomma, tanta gente che è fuori sede per tantissimi motivi, spesso ti ritrovi a vivere in casa con persone con cui non condividi nulla, cioè, ma proprio nulla. Sei costretto a viverci perché non trovi nient'altro. Quindi Quindi sì, vabbè, di casi se ne potrebbe parlare fino all'infinito. Se vuoi lo faremo, perché potremmo chiamare di nuovo anche te per capire un po' come va a Berlino nelle prossime settimane. Sì, Quindi quando certo. sei libera, quando abbiamo un programma in cui vuoi intervenire, Va possiamo... bene. Ok. Stai entrando ufficialmente nella lista dei numeri potenziali da chiamare, da molestare durante le dirette di Radio Zaan. Lorenzo fa anche un sacco di scherzi telefonici, purtroppo. Faremo qualcosa per bloccarlo, insomma. Sentiste Gulli. Ha voglia, voglia. Quindi posso anche chiamare a voi, perché noi probabilmente faremo un programma domani. Comunque c'è Radio No Border che fa la radio come voi praticamente ogni 2 giorni. Beh, mi sembra fighissimo. Assolutamente. Eh sì, dai, dai. È molto Quindi bella questa cosa. salutaci Berlino e ti abbracciamo da qui, ti ringraziamo tanto e ci sentiamo presto. Va bene, dai Grazie. Un forte. saluto ai tuoi compagni e alle tue Dai. compagne e dai è forte. Ci sentiamo presto. Dai. Un bacio e un abbraccio forte virtuale. Ciao, grazie. Marti, Ciao annuncia la musica. belli e belle. Ciao. Ciao. Andiamo avanti con un po' di musica di Lady J. You got the love I need to see me through. You

20 e 30, eccoci tornati sulle frequenze di Radio ZM, quinta pillola della settimana. In questo momento stiamo preparando la telefonata per la prossima compagna Tecla che chiameremo a Ro. E intanto io e Jordi vi intratteniamo con un paio di informazioni. Ciao Jordi. Ciao. Come stai? Ma dai, abbastanza bene. Dimmi tu come stai vivendo questi momenti. Allora, inizialmente non ero particolarmente preoccupata. Ultimamente mi sta venendo un po' la paranoietta. Riferito più o meno a che cosa? Un po' a tutto. Ovviamente all'emergenza sanitaria, però anche proprio a questo senso di controllo perenne, anche se invisibile, perché non è che c'è qualcuno che mi punta la pistola dicendo devi rimanere certo. A casa. Però diciamo che quando esco, ed esco poco ovviamente, mi guardo molto intorno. E poi mi fanno molta tenerezza gli anziani che vedo in giro, semplicemente perché immagino che stare a casa rinchiusi tutto il tempo non sia semplicissimo, e quindi ogni tanto ci sta andare al parco, sedersi su una panchina e prendere un po' il sole, nel senso, certo. Sono elementi fondamentali della nostra esistenza. Però vabbè, sto cercando di pensarci il meno possibile, sicuramente vedrò come andrà avanti la mia emotività, però vabbè, cerchiamo di andare avanti. Sì, sì, con serenità. Serenità più possibile, anche sentendoci, quindi mi rivolgo a tutti gli amici, i compagni, le compagne, le amiche, anche gli estranei. C'è una cosa fondamentale, che un post che girava nei vari social e nei vari siti, una di quelle citazioni che si leggono così volante mentre scorri, di portare sempre un po' di gentilezza alle persone che incontri, perché chiunque sta coltivando e sono portando d'accordo. Avanti una battaglia quotidiana. In questo momento, oltre alle battaglie quotidiane, si è sommata anche questa sorta di battaglia che stiamo combattendo contro, tra virgolette, il virus, ma poi anche tutto quello che lo ha portato. E ora stiamo le cercando contraddizioni. Le contraddizioni, esatto, che porta, e anche un po', mi viene da dire, anche alle conseguenze del nostro stile di vita, che hanno portato non per forza di cosa al virus, ma anche a una reazione negativa rispetto a un momento in cui vanno a toccare quella che era la comfort zone a cui eravamo abituati. Quindi in questo momento più che mai, secondo me, è necessario sentirci tra di noi e confrontarci e farci compagnia e essere tolleranti il più possibile. Infatti Rete Gin ha esatto. creato una bellissima iniziativa che adesso sponsorizzeremo. Volevamo fare appunto questo saluto alle compagne di Rete Gin. È uscito questo evento che a Scaglioni si ripeterà, se non sbaglio, ogni martedì, il 24, il 31 e il 7, per adesso segna Facebook. L'evento si chiama Facciamo due chiacchiere, lo trovate sul profilo di Rete Gin della pagina Facebook, e recita questo testo. Se c'è una cosa che possiamo fare in questa situazione di isolamento, oltre ovviamente seguire le misure per minimizzare il contagio, è connetterci. Non è un gioco di parole. Ogni martedì, a partire da martedì 17 alle ore 16, quindi il primo incontro è stato oggi, vi invitiamo tutte le persone che si sentono donne a passare un'ora più insieme. Un momento in cui conoscersi, raccontarsi, supportarsi nelle difficoltà di questi giorni e oltre. Vieni a fare due chiacchiere. Praticamente si usa l'applicazione Zoom, è molto semplice da usare e penso che venga proprio creato questo momento di condivisione anche di persone che non si conoscono e che hanno voglia di raccontarsi e di confrontarsi, ovviamente, che si sentono donne. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto, che ho letto. Un saluto alle compagne di Rete Gin, abbiamo ricondiviso il post e ci vediamo presto, speriamo. Ora iniziamo col collegamento a Ro. Sentiamo la nostra compagna Tecla. Tecla! Tecla! Pronto? Ciao Tecla! Ciao! Ciao, ciao Tecla! Che bella puntata che sta venendo! Meno male! Complimenti a tutti, complimenti! Ho ascoltato tutte le testimonianze e sta venendo fuori un bel lavoro. Grazie Tecla! Meno male che ci siamo! Grazie mille! Grazie. Cogliamo l'occasione anche per salutare in diretta tutte le persone che ci stanno ascoltando, tutte le compagne e compagni, ma soprattutto anche la madre di Giulia, Rosa, e la sorella Daniela, che ci fanno i complimenti. Ciao grazie. Rosa, ciao Daniela! Ti salutiamo in diretta E Tecla, che dire? Come si sta, Ro? Aggiornamenti? Ma allora, qui io posso aggiornarvi su dati molto realistici, diciamo, perché mia mamma lavora all'ospedale e dirò. E la situazione qui a Ro è abbastanza critica, nel senso che i contagi aumentano di giorno in giorno e io appunto sono molto vicina a mia mamma che anche in questo momento è appena andata a lavorare dicendomi sto andando in trincea, quindi... Pensa che è una delle persone che seguo di più su Facebook. Sì, davvero, ti saluta tanto la mia mamma. Grazie, comunque. Perché tira fuori sempre dei post con anche due parole molto, molto interessanti di riflessione. Sì, anche perché mancano gli strumenti, fanno lavorare gli altri reparti senza le mascherine, cioè non bastano le mascherine perché le danno tutte al reparto dove c'è il coronavirus e sono limitate e quindi c'è un grosso problema di materiale. E oggi mia mamma mi ha detto che siamo arrivati a 35 contagiati ricoverati. E siamo arrivati al punto che ormai si fanno anche le scelte, cioè se arriva il sessantenne, il trentenne salvano il trentenne e il sessantenne non lo intubano, ma gli fanno la morfina, cioè sono cose molto forti che mi ha detto mia mamma oggi. E insomma, la situazione adesso c'è proprio il picco, bisogna tenere duro. E non uscire di casa o limitare le uscite e niente, questa è un po' la mia situazione, diciamo. Bisogna stare vicini ai medici, ragazzi, facciamolo, perché è veramente, veramente tosta, cioè io lo vedo nel volto di mia mamma che arriva a casa distrutta e disperata e si preoccupa per noi, cioè statemi lontani, non vi avvicinate. E tra l'altro adesso faranno fare il test obbligatorio a tutti i medici, è passato oggi questo decreto, perché prima non gliel'hanno fatto fare a nessuno il test, quindi il tampone. Meglio tardi che però mai. Però ad oggi lo faranno, eh? Meglio tardi che mai. Sì, beh, esatto. Per fortuna adesso è passata questa cosa qui. Grazie Tecla, anche perché io questa cosa non l'ho letta oggi, non la sapevo e mi hai portato un'informazione che non avevo tra ancora l'altro, letto. Se vi può interessare, mi ha anche detto mia mamma che stanno provando dei medicinali che vengono utilizzati per l'AIDS e per l'artrite e pare che abbiano dei risultati, cioè ci sono delle guarigioni, però solo di giovani. E quindi piano piano si sta cercando una cura, diciamo. E niente, questa è un po' la situazione, diciamo. Va bene, grazie per averci aggiornato. Ma vi sento molto poco, ragazzi. Comunque, ci senti poco? Sapete. Sì, mi sentivo meglio l'altra volta. Hai alzato al massimo il volume del tuo telefono? Sì, l'ho alzato. Allora cercheremo di avere la voce un pochettino più alta. Grazie mille per il tuo contributo e se vuoi anche iniziare pure con le tue letture che non aspettavamo altro. Esatto. Allora, io ragazzi questa volta vi ho portato due poesie e... vorrei dedicare queste poesie a tutte le donne vittime di violenza e che in questo preciso istante si trovano ad essere costrette dentro casa a causa dell'emergenza coronavirus. E non dimentichiamoci che anche in questo momento la violenza domestica esiste. E tra l'altro mi volevo collegare anche a quello che ha detto Chiara, perché io conosco molto bene il centro Cadmi. Ho fatto un lavoro all'interno del Cadmi e so che le operatrici sono bravissime e in questo momento il Cadmi è attivo, rispondono e insomma, donne, se siete in difficoltà, chiamate. E grazie Chiara per aver dato tutti i numeri, hai fatto proprio una gran cosa. E allora vi annuncio le poesie. La prima poesia che leggerò è stata scritta da tra l'altro un uomo che si chiama Bruno Esposito e ve la leggo poi commentiamo magari. E vado. Vai. Quando vuoi. Sono coraggiose le donne. Ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità solo uno stato culturale più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne. Quando scelgono la solitudine, rinunciano a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini, che sono anche padri, la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne, quando a discapito di tutto e di tutti scelgono i propri compagni, costruendo solide storie e spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie, che non sono più tali. Sono la speranza del mondo le donne, in qualsiasi circostanza continuano a far nascere uomini che poi le tradiranno. E questa poesia credo che abbia una sensibilità particolare proprio perché ci ricorda che noi donne siamo coraggiose, che la debolezza non è donna, ma è un vincolo culturale. Ed è bello sentire queste parole dette da un uomo. E niente, quindi volevo dedicarvela. Dedicarla alla puntata, appunto. Oddio, mi stai impappinando, aiuto! Grazie. ma lui dove l'hai pescato? Allora, lui è uno scrittore contemporaneo. In realtà ho fatto, non avendo appunto il materiale sotto mano, perché sono dei miei genitori, ho fatto un po' di ricerche su internet. E lui scrisse questa poesia in occasione dell'8 marzo del 2012, dove venne fatta appunto una raccolta e lui vinse un premio e l'aveva scritta proprio in onore dell'8 marzo. Questo è ciò che ho trovato. Invece la prossima poetessa, che si chiama Anna Maria Ferramosca, ha scritto un libro, se poi volete appunto leggerlo, che si chiama Curve di livello, pubblicazione del 2006, e all'interno di questo libro ho trovato questa poesia che si chiama La violenza contro le donne e vuole essere, diciamo, proprio un inno alla condizione della donna nello spazio sociale. È molto particolare, è un po' difficile leggerla al telefono, però ci provo e vado. Leviamoci dalla testa l'idea che, ahi noi, la violenza contro le donne sia finita. Veniamo contraddette ogni giorno dalla, non certo inusuale, violenza di pensieri, parole, atti. Omissioni da far rabbrividire chi pensava, lungimirante, che il novello millennio potesse offrire elementi di nuova civiltà? D'un altro comportarsi nei confronti di giovani e men giovani. Donne che col proprio zelo di mogli, di compagne, di figliuole, di madri, adesso speravano libere e fiere nella propria capacità di fare scelte doverose, dignitosi distinguo, di operare nel meglio di una matura libertà nata da sofferenze secolari, dalla tribolata millenaria condizione di schiave, sottomesse, silenziate, ruinose vittime di uccisioni, di stupri, di violenze, orrende onnipotenti contro corpi ed anime, intelligenze e lucide visioni di una vita altra, altrimenti vissuta e davvero vivibile. E allora, donne, che fare? Che pensare? Oh, dove, dubitose, raccogliere senza troppo timore le limpide nostre menti, i corpi, le speranze, le parole, le età che, nolenti o volenti, ci accompagnano? E intanto, nella formulazione di risposte possibili, viva, viva le donne. Sempre molto difficile leggere Grazie in mille, radio. Grazie, Tecla. Bene, se volete cercare il libro Curve di livello, ve lo consiglio perché Ma me lo sono Lorenzo l'ha già spulciato. trovato. Sì, stavo facendo qualche È ricerca online mentre ti bravissimo. ascoltavo, così la mandiamo anche sul canale Grande Telegram. Lorenzo. Grazie Sì, a te, Tecla. ve lo consiglio perché io me lo sono spulciato oggi e ci sono delle poesie dedicate alle donne che sono molto belle, non solo alle donne. E niente. Spero di risentirvi presto, anche perché mi piacerebbe magari nelle prossime puntate potervi raccontare anche della mia situazione, visto che ho sentito l'intervento di un'educatrice prima. Sì. E siccome anche io faccio l'educatrice da settembre e la situazione a scuola cioè per noi educatori è, diciamo, devastante perché non ci stanno facendo lavorare e io lavoro con ragazzi che sono vittime di violenza ogni giorno e in questo momento sono a casa e noi educatori non possiamo aiutarci. E oltre a soffrirci molto di questa situazione, ma emotivamente, cioè a parte i soldi, ma a livello emotivo, io penso a questi ragazzi che probabilmente oltre all'aiuto didattico avranno bisogno anche del nostro di aiuto. Pare che si stia muovendo qualcosa adesso. Però vediamo, se mi ci potranno mettere in contatto con questi ragazzi, mi piacerebbe portare qualche testimonianza. Sarebbe bellissimo. Sì, grazie. Sì. Infatti, quando parlava l'educatrice prima, mi è proprio venuta in mente l'esperienza che abbiamo fatto insieme riguardo al mini documentario per la tua tesi in quel centro e ai ragazzi e alle Ah, ragazze che sì. abbiamo conosciuto, cioè che io ho Certo. conosciuto in quei momenti di riprese mentre tu facevi, mentre lavoravi, insomma. Esatto, tra l'altro in quel centro ci sono appunto quasi tutte ragazzine, adolescenti molto piccole che subiscono praticamente da quando sono bambine violenze, ma anche abbastanza brutte da parte del padre e dei padri. E in questo momento mi immagino queste povere ragazzine che devono stare rinchiuse in casa e subire questo tipo di molestie, quindi è una situazione che deve essere agghiacciante. E purtroppo gli aiuti però, cioè, stanno arrivando in ritardo perché a me solamente oggi mi hanno comunicato che potrò aiutarli, cioè sentirli via computer, via Skype. Però insomma, arriva tutto sempre tardi. Quindi è veramente agghiacciante questa situazione. Sì, abbastanza. Facciamoci E, esatto, sì. Infatti trovare mi ha pronti fatto. quando questi ritardi arriveranno un po' tutti. Teniamo alta la guardia e continuiamo a guardarci intorno. E continuiamo a sentirci, Tecla, perché sono contento che è già la seconda volta che ci sentiamo al telefono, che porti il tuo contributo su questi canali. Chiamate, fra poco ci sarà anche attivo un numero di telefono della radio. E se riusciamo a fare un programma anche un momento proprio di sole telefonate sarebbe bello, è in cantiere, ci stiamo provando a lavorare con tutti gli impedimenti del momento. Grazie mille Tecla, saluta tanto i tuoi genitori, tua Grazie, sorella. Tecla. Certo, vi saluto tutti Ciao tutti e Tecla. vi saluto. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, Ci sentiamo ciao, presto. ciao. Continua ad A ascoltare la presto. puntata che c'è ancora della musica freschissima dalle DJ, tutta per voi. Vai, mandamela. Ciao. Let it lead my way, la hija de la diáspora. Ed eccoci tornati su Radio ZM, 20:55 del 17 di marzo, siamo alla quinta pillola della settimana. Oggi abbiamo avuto la fortuna di collegarci telefonicamente con delle compagne da più o meno tutta Europa. Marti, diciamo un po' dove siamo stati oggi. Siamo stati in Svezia con Giulia, che salutiamo, grazie per il tuo contributo. A Berlino da Giulia. Grazie Giulia, ciao. E a Rho da Tecla. Seconda volta che Tecla compare sulle frequenze di Radio ZM, la salutiamo e ringraziamo. Torniamo un po' più vicini a noi. Esatto. E sentiamo tra poco Giulia da Milano, ma prima... Sì, volevo ripetere nuovamente i numeri e i centri antiviolenza da contattare in caso di necessità. Casa di accoglienza delle donne maltrattate, il numero è lo 02 55 01 55 19. Cerchi d'acqua cooperativa sociale, numero 02 58 43 011 7. Donne insieme contro la violenza, 02 090 42 011 0. Stiamo telefonando a Giulia. Pronto? Ah, ciao ora Giulia. Ti sentiamo molto meglio. Ciao Giulia, ci senti? Sì, vi sento. Il mio cellulare non è un granché, lo so. Non è il top del top. Non è il top del top, no. Mannaggia. Buonasera. Buonasera, come stai? Stai Giulia? Ma sto molto bene, grazie. Voi? È stata una bellissima puntata. Infatti io ho un po' il timore adesso di abbassare il livello. Ma no, dai, assolutamente. Perché? Non può succedere questa cosa. No, non lo dico per falsa modestia, sono sincera. Ho un po' questo timore, ci sta, no? Certo, certo, certo. Tu non sai prima io e Jordi in che stato eravamo. Lo so io. Io ho sudato e sudo tuttora. Siete state bravissime, avete due voci veramente, cioè già dal vivo. Molto DJ. Anche in radio rendete ancora di più. Vero? Forse mi si sente meglio in radio. Che dal vivo. Sì, Marti, è vero. Marti. Perché forse voi non lo sapete, ma Martina parla a bassissima voce e quindi non parlo a te Giulia ovviamente, ma alla restante popolazione che ci sente. E spesso Martina ci comunica un po' ultrasuoni. A ultrasuoni, esatto, con gli ultrasuoni, quindi è difficile. Infrasuoni, dice il tecnico. Dovremmo dotarla di un microfono da portarsi sempre in giro, così la possiamo sentire squillante ci sempre. Ci sta. Assolutamente, anzi ci sarà un programma dedicato su cui era soltanto Marti. Un programma di ASMR, non so se avete presente. Sono quelle persone che registrano la voce bispigliando questi suoni, solo così. Parlano a bassissima voce, tipo sound porn, una cosa che le persone si emozionano a sentire. Questi rumorini, tipo lo scricchiolare della plastica, piuttosto che le persone... Esattamente. Sushi, però se parli non ti si sente senza il microfono. Allora, Sushi è una ha cosa detto, che la tecnologia tipo Davide quando mangia. Ha detto tipo Davide quando mangia. Salutiamo Davide. Ciao Davide. È a casa e ci sta ascoltando, ci fa un sacco di complimenti, da quello che ho capito, penso. Ci fa anche la pappa. E quindi Giulia, torniamo a parlare con te. Questa è la prima volta che ti sentiamo a Radio ZM. Siamo molto contenti di aver creato questo ponte telefonico dove riusciamo a sentire la tua bella voce squillante che ci racconta delle cose. Il ponte con 22 marzo di Milano. Esatto, sì, perché, 22 marzo perché no. Di Milano. In questo momento è necessario, così come è necessario per la Svezia, per Berlino, per Londra, anche per 22 marzo, secondo me. Esatto. Vai Giulia, l'astronave è tutta tua. Allora, cercherò di essere brevissima, come tutte quelle persone che in assemblea lo dicono e poi hanno degli interventi che durano 20 minuti. Sì, sto parlando con voi che siete in ascolto, so che avete capito a chi mi sto riferendo. Allora, io, visto il tema di stasera, spero di non abbassare il livello perché finora si è toccato delle questioni molto delicate, molto interessanti. Soprattutto anche in chiusura con Tecla e le sue poesie. Io volevo risalire un po' all'origine politica di tutto questo. Visto che dalla quarantena si può trarre qualcosa di positivo, e nel mio caso è riuscire a leggere tutti quei libri che ho accumulato in un anno e che erano lì sulla scrivania che mi guardavano con fare molto della serie «Quando mai ci aprirai?», finalmente sono riuscita ad aprirli e a leggerli. non tutti ovviamente, un pochettino qua, un pochettino là, e visto il tema di oggi sono andata un po' a recuperare alcuni pezzi di alcuni libri di alcune donne molto importanti per la storia del femminismo internazionale. E la prima che vorrei un attimo citare è Simone de Beauvoir. È una filosofa e scrittrice francese, vissuta nel secolo passato. E vabbè, io adesso subito vi dico, io non sono assolutamente una luminare né un intellettuale, sono una curiosa, sono una persona appassionata e quindi probabilmente potrei anche dire delle grandi castronerie, spero di no. E chiedo l'aiuto delle mie compagne lì presenti in radio, che sicuramente sanno di cosa sto parlando. E okay. Quindi anche voi, Lore e Sushi, intervenite quando volete, interrompetemi, non c'è nessun problema. Sarà fatto. Sushi no, dai. Bravi. Sushi no perché non ha il microfono, non no perché no. Okay, ecco, vabbè, se vuole, insomma, chi vuole. Glielo lanciamo, grazie, sarà fatto. Cedo volentieri il posto a Maki, che vuole dire la sua. Ragazzi, ma qua perfetto. Ci sono delle voci radiofoniche che va veramente neanche a farlo apposta. Scusa Giulia, procedi. Vai Giulia, vai. No, interromperemo. No, allora, parto con lei che è un po' una delle capostipiti del femminismo contemporaneo, diciamo. E lei ha scritto questo testo che, non scherzo, è alto più o meno 6 centimetri. Che si chiama, si intitola Il secondo sesso, parla proprio della figura della donna da un punto di vista psicologico, filosofico, sociologico e analizza tutte le fasi anche della crescita, dello sviluppo, anche delle interazioni sociali che ha la donna. E io oggi sono andata a recuperare la parte dell'iniziazione sessuale della donna. Ed è interessante come in questo capitolo lei parte subito facendo la differenza tra uomo e donna. Qual è l'iniziazione sessuale dell'uomo e poi quella della donna, proprio perché la donna viene definita come l'altro sesso. Si parla dell'uomo e poi c'è qualcos'altro e questo altro è appunto la donna, che non si definisce attraverso se stessa, ma sempre in contrapposizione all'uomo. Quando parla della sessualità maschile, parla appunto del fatto che da quando si è dei bambini si arriva poi, cioè tutta una scoperta del corpo, ma tutto molto a livello incosciente, e poi si arriva alla maturità sessuale e con la maturità sessuale si ha l'oggettivizzazione del piacere erotico. Ed è molto interessante perché per l'uomo il piacere sessuale viene praticamente individuato come qualcosa di trascendente, quindi non appartiene proprio alla corporeità, all'essere dell'uomo, ed è per questo che l'uomo nell'atto sessuale va tutto verso la donna, è tutto concentrato sulla donna, anche se lui rimane di fatto sempre molto autonomo, decide lui cosa fare, come comportarsi, e di fatto è il soggetto, e la donna quindi diventa oggetto. E in questo modo, vi sto cercando di riassumere il capitolo, quindi ci siamo, prendete ci tutto siamo. Un po' con le pinze. Certo. In questo modo il corpo della donna diventa di fatto, viene visto come una preda. E si arriva al momento di piacere massimo, quindi l'orgasmo, che ha per lo più uno scopo fisiologico, ovvero quello di liberarsi, detta proprio in parole povere, delle proprie secrezioni. Stiamo parlando sempre dell'uomo. Adesso invece, quando passa a parlare della donna, vi riporto proprio le sue parole, perché è un pochettino ovviamente molto più brava di me. Ah, innanzitutto io consiglio a tutti, prima di tutto lo dico ai maschietti, sì, e a tutte, la lettura di questo libro, perché è un testo sì importante, lungo, impegnativo, ma Simone de Beauvoir ha una capacità di scrivere cose anche abbastanza contorte, perché da un punto di vista filosofico, ma in una maniera estremamente chiara, a differenza di altre filosofe femministe che invece sono un pochettino più difficili. Quindi lo reputi un po' più accessibile rispetto a, alla filosofia? È molto accessibile come testo, sì. E appunto, quando ha finito di parlare della maturità sessuale, del piacere sessuale dell'uomo, passa a parlare di quello della donna e dice così: se divento troppo lunga o noiosa, ditemelo, mi fermo. Vai, Giulia, non ti preoccupare, vai, è molto interessante invece. Ti stiamo ascoltando tutti, anche Maki e Hank. Sì, però sappiate che dopo ho anche altre cose da dire, quindi se sforiamo, facciamo. Ma non possiamo sforare. L'erotismo della donna è molto più complesso e rispecchia la complessità della situazione femminile. Si esprime, tra l'altro, con l'opposizione di due organi, la clitoride e la vagina. Parla della clitoride in relazione alla, diciamo, ancora all'infanzia, quindi qualcosa sempre legata molto a una sfera non cosciente, e poi parla invece della vagina legata per forza al piacere sessuale, quindi all'intromissione dell'uomo, e lo lega anche al fatto che in epoche un po' più lontane, magari anche se ancora oggi magari succede, questo avveniva tramite il matrimonio, quindi uno scambio, una sorta di mercificazione. La donna si sposa, viene data in premio, tra virgolette, ad un uomo, e da lì poi appunto c'è poi anche tutto l'atto sessuale. La reazione vaginale è certamente molto complessa. La si può definire psicofisiologica perché riguarda non solo l'insieme del sistema nervoso, ma dipende da tutta la situazione vissuta dal soggetto. Esige un consenso profondo di tutto l'individuo. Il nuovo ciclo erotico, inaugurato col primo coito, deve avere per stabilirsi una specie di montaggio del sistema nervoso, l'elaborazione di una forma che non è ancora abbozzata e che deve sviluppare anche il sistema clitorideo. Ci vuole molto tempo perché si realizzi e non sempre riesce a crearsi. È sorprendente che la donna abbia la scelta tra due cicli, di cui l'uno perpetua l'indipendenza giovanile, quello legato alla clitoride, mentre l'altro la vota all'uomo e ai figli. Difatti, l'atto sessuale normale rende la donna schiava del maschio e della specie. È lui, come avviene per quasi tutti gli animali, che aggredisce mentre lei subisce la sua stretta. Normalmente essa può sempre essere presa dall'uomo, mentre egli può prenderla solo se è in stato di erezione. Da qui in poi lei parla proprio anche dell'atto sessuale, quindi anche proprio della funzione sociale che ha legata alla procreazione e della posizione che assume la donna in questo contesto. Poiché essa è oggetto, la sua inerzia non modifica profondamente la sua funzione naturale, tanto che molti uomini non si curano di sapere se la donna che divide con loro il letto desidera il coito o se vi si sottomette soltanto. Il coito non può avvenire senza il consenso maschile e la soddisfazione del maschio, né è il fine naturale. La fecondazione può effettuarsi anche se la donna non prova nessun godimento. D'altra parte, la fecondazione non rappresenta affatto per lei il compimento del processo sessuale. Al contrario, in questo momento inizia il compito che le è imposto dalla specie. Si realizza lentamente, penosamente, con la gravidanza, il parto, l'allattamento. Il destino anatomico dell'uomo e quello della donna sono dunque profondamente diversi. Altrettanto dicasi della loro situazione morale e sociale. Questo passo è molto interessante, perché seppur scritto un po' di anni fa, direi che è ancora molto attuale. La civiltà patriarcale ha votato la donna alla castità. Si riconosce più o meno apertamente il diritto del maschio di soddisfare i desideri sessuali, mentre la donna è relegata nel matrimonio. Per essa l'atto sessuale, se non è santificato dalla legge e dal sacramento, è colpa, rovina, sconfitta, debolezza. Ha l'obbligo morale di difendere la sua virtù, il suo onore. Se cede, se cade, suscita il disprezzo, mentre perfino nel biasimo inflitto al seduttore c'è dell'ammirazione. Dalle civiltà più antiche fino ai nostri giorni, il letto è sempre stato considerato per la donna un servizio di cui il maschio la ricompensa con regali o assicurandole il mantenimento. Ma servire significa imporsi un padrone. In questo rapporto non c'è nessuna reciprocità. Vabbè, adesso mi fermo un attimo qua e in questo, con questo passo mi ricollego. È tutto abbastanza chiaro, spero di essere, cioè, affilato, sì, sì, il discorso. Molto chiaro e anche molti spunti di riflessione, secondo me. Esatto, sicuramente personali. Esatto, bravissimo Lorenzo, sapevo che tu avresti colto. Io intendo, vorrei non correggermi, però ampliare la parola personale. Intendo che uno può vivere nel proprio vissuto, ma anche osservare all'interno del proprio nucleo familiare, ecco. Intendevo anche più quello, in realtà. Che ovviamente, e di amicizie. Sì, amicizie, nucleo familiare, quindi intendo proprio i genitori, o conoscenti, o anche riflessioni, conoscenti, ovviamente, individuali su di sé. Io, tramite questo ultimo pezzetto che ho letto di Simone de Beauvoir, volevo ricollegarmi a un'altra super donna, uno dei miei miti personali, miti, oddio, adesso sembra una bambina, però magari anche sì, si tratta di Angela Davis, nel senso della differenza sociale che rappresenta il matrimonio, la conquista, la seduzione, ma anche l'atto sessuale stesso, e quindi dei privilegi che l'uomo nella nostra società ha di default rispetto alla donna. E vabbè, Angela Davis, piccola introduzione, è una compagna, è una scrittrice, una donna politica. Negli anni 70 lei è stata una delle allieve di, oddio, adesso mi sfugge il nome, aspetta che lo recupero, è venuta a studiare qua in Europa, lei è americana, afroamericana, è venuta a studiare in Europa ed è stata una delle, sto cercando di recuperare il nome, dovrebbe essere francese, Marcuse, bravo, Marcuse. E vabbè, ha subito anche un processo molto, molto importante negli Stati Uniti, è stata anche in carcere ed è anche per questo mi arrivano i suggerimenti da casa, che gente che mi ascolta, Marcuse, bravissimi. Grazie Martina B. Salutiamo Martina. Ciao Marti! Ciao Marti. Lei ha subito un processo, è stata in carcere ed è per questo che è diventata anche una delle più grandi sostenitrici della lotta contro l'abolizione delle carceri. Ha scritto questo testo, riprende il concetto di intersezionalità introdotto nel 1989 dalla Crenshaw, e lei lo riprende per parlare del concetto di genere, razza e classe. Secondo lei questi tre aspetti non possono essere separati nella lotta contro l'oppressione. E io, appunto, per ricollegarmi anche a quello che dicevo prima di Simone de Beauvoir, ho preso questo pezzo del testo. Leggo. Ti sentiamo forte e chiaro. Ripeto, legato ai privilegi dell'uomo, del maschio. Ma perché ci sono così tanti stupratori anonimi? Forse è un privilegio di quegli uomini che, grazie al loro status, possono sottrarsi dall'essere perseguiti penalmente? Non vi è dubbio che i bianchi, che sono imprenditori, dirigenti, politici, medici, professori, eccetera, approfittino delle donne, che considerano come esseri socialmente inferiori. Eppure i loro crimini sessuali raramente vengono alla luce. Non è piuttosto probabile che questi uomini della classe capitalista e media corrispondono a una significativa percentuale degli stupri non denunciati? Oggi la struttura di classe della società capitalista alimenta un medesimo incentivo allo stupro. Sembra infatti che i capitalisti e i loro complici della classe media siano immuni ai procedimenti giudiziari, perché commettono aggressioni sessuali con la stessa autorità incontestata che legittima i loro attacchi quotidiani al lavoro e alla dignità della classe lavoratrice. L'esistenza diffusa delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro non è mai stata un segreto. È proprio sul lavoro, in realtà, che le donne, soprattutto quando sono sindacalizzate, sono più vulnerabili. Avendo già stabilito un dominio economico sulle donne loro sottoposte, i datori di lavoro, i manager e i capi reparto sentono di poter affermare la propria autorità in termini sessuali. Il maggior sfruttamento delle donne working class rispetto agli uomini della loro classe si somma alla loro vulnerabilità verso gli abusi, e viceversa la violenza sessuale rinforza la loro vulnerabilità allo sfruttamento economico. La struttura di classe del capitalismo incentiva gli uomini che esercitano il potere sul terreno politico ed economico a diventare agenti quotidiani dello sfruttamento sessuale. L'attuale epidemia di stupri avviene in un momento in cui la classe capitalista sta violentemente riaffermando la propria autorità di fronte agli attacchi interni e internazionali. Sia il razzismo che il sessismo, centrali per la sua strategia di sfruttamento economico sempre più intenso, vengono alimentati oggi più che mai. Non è una mera coincidenza che mentre l'incidenza degli stupri aumentava, la condizione delle lavoratrici peggiorasse visibilmente. La proliferazione della violenza sessuale è il volto brutale dell'intensificazione generalizzata del sessismo che necessariamente accompagna questa aggressione economica. Data la complessità del contesto sociale in cui si verifica lo stupro, ogni tentativo di trattarlo come fenomeno isolato è destinato a naufragare. Un'effettiva strategia deve porsi un obiettivo più avanzato dello sradicamento dello stupro e persino del sessismo. La lotta contro il razzismo deve essere una questione permanente nel movimento contro gli abusi, che deve difendere non soltanto le donne di colore, ma anche le molte vittime della strumentalizzazione razzista dell'accusa di stupro. Le dimensioni critiche della violenza sessuale costituiscono un aspetto di una profonda e permanente crisi del capitalismo. In quanto violenta faccia del sessismo, la minaccia di violenza continuerà a esistere fino a quando l'oppressione delle donne farà da stampella al capitalismo. Il movimento contro lo stupro e la sua importante attività, dal sostegno psicologico e legale all'autodifesa e alle campagne educative, deve collocarsi in un contesto strategico che punti alla sconfitta definitiva del capitalismo monopolistico. Beh, un bel manifesto. Anche, sì, direi che sì, è anche lei molto chiara. È molto forte anche quello che dice, poi lei lo contestualizza molto anche nella situazione delle donne nere d'America, però è qualcosa che appunto non possiamo prescindere una cosa dall'altra, dobbiamo affrontarle, analizzarle, studiarle e capire come combatterle tutte insieme, perché non puoi appunto eliminare un tipo di oppressione se non se ne lasci attiva un'altra. Questo è quello che appunto Angela Davis ci insegna. E, in realtà c'era un altro pezzo che avrei voluto leggere. Però? Non so, magari vi sto un po' annoiando, vi state addormentando sulla seggiola, avete fame? No, assolutamente, vai. Sei lì. Io sì. Jordi ha fame, però resistiamo. Guarda, Jordi, non avevo dubbi. No, in realtà appunto l'altro giorno quando abbiamo fatto la prima puntata vi ho letto il primo capitolo del libro di Virginie Despont e poi sono andata avanti nella lettura e guarda caso il secondo capitolo inizia proprio prendendo un estratto dal capitolo che ho appena letto di Angela Davis, di Donne, Razza e Classe. Beh, te l'ha proprio chiamata questa cosa. Sì, era tutto estremamente bello e pronto. E premessa, Virginie Despont non ha nessun pelo sulla lingua e parla in questo capitolo di quando lei ha subito uno stupro e usa meno il politichese, cosa che io apprezzo tantissimo, ed è estremamente diretta e ci sarebbe anche un termine più adatto per definire il suo linguaggio. Ah, e anche a proposito di linguaggio, una cosa che ricorre in tutte e tre, parlano del linguaggio dell'uomo legato all'atto sessuale come molto spesso legato al linguaggio militare, quindi alla conquista, alla... di un territorio. Sì, esatto. Proprio l'uomo è visto come un conquistatore che deve attaccare e mettere la sua dominazione. Tutte e tre in questi capitoli affrontano anche questo tema del linguaggio. E non so, appunto, leggo l'ultimo pezzetto di Virginie o no? Cosa dite voi? Improvvisazione. Vai, sì, quanto è lungo? No, non è lunghissimo, è forte. Vai, va bene, ci facciamo compagnia ancora per un po', non ti preoccupare. Siamo pronti e pronte. Non lasciate le seggiole vuote mentre io parlo, in sostanza. No, non ti preoccupare. Lei appunto inizia il capitolo raccontando minimamente come si trova in questa situazione. Stava tornando da un viaggio a Londra con una sua amica e

E quindi vorrei chiedere atto di coraggio ai futuri genitori o quelli che lo sono ancora in corso, che hanno figli abbastanza giovani, di buttare giù alcuni tabù e parlare, disinnescare alcune strutture sociali che ci autoimponiamo e fare in modo che appunto si possa crescere tutti e tutte un po' più liberi. Mi trovi pienamente d'accordo, perché penso che se questa cosa non viene fatta nel nucleo familiare all'inizio della vita di una persona, poi ci tocca farlo da sole, da sole. E secondo me è molto più complicato sviscerare quali sono quei canoni che ci insegnano anche involontariamente le persone con cui passiamo la prima parte della nostra vita. Credo sia importante anche che avvenga a scuola, nei luoghi, esatto, collettivi, dove ci si confronta anche con i propri pari e non solo. E su questo sono assolutamente d'accordo anche con te rispetto alla famiglia, ma nell'aggregazione è forse anche magari un po' più semplice parlare di determinati tipi di argomenti e quindi affrontarli davvero, eliminando, come dici tu, dei tabù che portano soltanto a tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso, e quindi a sofferenza e violenze che potrebbero essere eliminate ed estirpate. Sì, parlarne fa la differenza, quindi riprendendo tutti gli interventi che ci sono stati finora, dall'educatrice anche alla frustrazione, insomma, a volte di non riuscire a fare quanto vorremmo, ma già parlarne tra noi e creare una visione critica, consapevole di quello che è la nostra vita e la nostra sfera personale, sessuale, che poi è anche collettiva, perché la condividiamo, è già una cosa molto molto importante da fare. Grazie Giulia. Ma di che? Grazie a voi e spero di non... Di non? Non lo so. Di non aver annoiato, non lo so, Giulia. Ripeti... No, non ti preoccupare, sei stata molto puntuale. Volevo... Hai scelto delle letture molto interessanti. Volevi? Sì, volevo condividere un po' con tutti e tutte i miei studi da quarantena. E... Hai fatto benissimo. Mi scuso anche con tutte le persone a cui ho rotto le ovaie e le palle oggi dicendo ascoltateci, e so che ci stanno seguendo anche dal Piemonte, grazie Fra. Grazie. Ciao Piemonte! Salutiamo tutte le persone che stanno ascoltando dal Piemonte, ma anche da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo, ma soprattutto quelle del Piemonte. Posso salutare anche il mio papà? Sì, salutiamo il tuo papà! Ciao Cosimo! Va bene. Giulia, grazie. Grazie Giulia. L'ultima cosa, posso dirla? Posso fare quella... Ma che non sia l'ultima, dici. La telespettatrice impazzita che... voglio salutare tutti! Grazie alla Gé per le bellissime canzoni che ci ha mandato, il suo contributo. E io sono veramente felice di quella sta mia amica qua. Infatti vi mettiamo un momento di pausa per il prima dei saluti, eh? Dai, facciamo un paio di canzoncine della Gé. Dai. Giulia, grazie. Dai. Mille. Ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni, anche perché in teoria vorremmo rivolgere l'invito a dopodomani per tornare qua a trasmettere con lo stesso format di programma, se non sbaglio. Non vi libererete di me. Mai, assolutamente. Di nuovo con la musica, a fra poco. Ciao Giulia. Ciao Mercu. Ciao. Parlami di come puoi volare e di come non senti più il male. Parlami dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato. Parlami di favole malate e del tale che le raccontate, delle mani che ti sei lavata, della faccia tua che si è girata. Parlami di come hai controllato hanno lasciato per sempre. Parlami di come la fortuna si è sempre tenuta ben lontana per sempre. Sfuma così la terz'ultima traccia di questo mixtape spettacolare che ci ha preparato le DJ. Sono molto contento che abbiamo portato avanti la puntata così tanto che siamo riusciti anche a ascoltare tutte le tracce, perché già pensavo di spezzarle per altre puntate, invece bene così. Allora, come siete state? Bene? Tutto a posto, Jordi? Ma sì, dai. Vogliamo fare una chiusura e raccontare un po'... 21:41, siete sintonizzati. Volevo dirlo io. Ma prego, prego. Volevo fare l'imitazione. 21:41, siamo sintonizzati sulla radio ZAM. Questa è l'imitazione di Jordi mia. E grazie mille, è stata una bellissima interpretazione. Adesso lascio l'astronave a Marti e Jordi e io mi eclisso. Sì, io volevo concludere sfatando due miti che riguardano un po' la disinformazione che c'è su le violenze domestiche e la violenza di genere in generale, in quanto il ciclo della violenza non è mai lineare ed è anche per questo che è così difficile uscirne. Ci sono molti alti e bassi, viene anche definito come circolo della luna di miele. E spesso la violenza principale che avviene è quella psicologica, che spessissimo appunto viene sottovalutata e che porta appunto a sentire una grande inadeguatezza e senso di colpa da parte della donna stessa. L'altro mito che ci tengo a sfatare è proprio il fatto che non esistono classi sociali più colpite, meno colpite, o comunque sia non esiste un profilo di donna o uomo che più facilmente possa subire o fare violenza. La violenza è trasversale e i centri antiviolenza appunto accolgono donne di ogni tipo e classe sociale, vittime di violenza agite da uomini di ogni genere. E per questo appunto la responsabile della rete Dire definisce la violenza maschile quasi democratica. Sì, perché coinvolge tutti e tutte, ahimè. Quindi è giusto occuparsene ed è giusto farlo, è una priorità, facciamolo insieme. A questo punto ringrazierei tutte le persone che sono intervenute, Giulia, esatto, cioè, doppio Giulia. E Tecla, Lorenzo e Jessica per le canzoni. Maki che borbottava e Sushi che ci ha fatto un po' di compagnia. Ed Hank che è stato silenzioso e meraviglioso tutto il tempo. Quindi noi ci risentiamo tra qualche giorno, no, dopodomani. Ricordiamo che le dirette di Radio ZAM vanno avanti e sentitevi tutti i vari podcast. Sì, vai, dai, prova. Scusa, intendevo noi questo programma, certo. Meraviglioso. Poi, ovviamente, ZAM è open, on air sempre. Quindi seguiteci su Facebook, Telegram e Instagram. E questo non l'ho capita, allora? Mixcloud, che è un sito dove potete trovare tutti i nostri bellissimi podcast. Ok, noi miglioreremo con i suggerimenti, così non ve li faremo capire, insomma. Facciamo le prove la prossima volta, sì. Ve lo giuriamo. Tutto a braccio oggi, tutto a braccio, è stato proprio un po' così. Bravissime, bravissimi. Grandi, grazie. Niente, grazie, Jay. Niente abbracci, ma tutto a braccio, quindi... Vi lasciamo con le ultime due tracce del mixtape pazzesco che ci ha preparato Jay e si vocifera... No, non lo dico, lo dico la prossima volta. Non diciamolo. State sintonizzati, ci saranno tantissime novità, teniamo duro e insomma... A presto, noi vi terremo compagnia. Forever, I know you heard it all a million times before. I ain't the first to show us how gonna be.